e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno, siamo qua. Buongiorno. In marcia. Bene. Tra l'altro io ho fatto già circa 6.000 passi. Brava. Più o meno sono 4 chilometri. Abbiamo messo anche la foto del mio contapassi. Però bel caldino, eh? Bel caldino, io devo dirti che me lo godo, perché essendo una che invece è intollerante al freddo me lo sto proprio godendo, anche perché poi qua in ufficio sono già partiti con l'aria condizionata, per cui quando arriva quel teporino esterno, comunque, a me sai, piace. Che questa sorta di anticipo, sì, dell'estate, ho letto, sì, questa intervista molto interessante di Massimo Pasqui sul Corriere, è uno dell'Istituto di Biometeorologia del CNR. Sottolinea proprio che queste ondate di caldo un po' precoci sono un segno del cambiamento climatico. Allora vorrei chiedere ai nostri amici che fanno sport, che vanno magari a piedi come me al lavoro, se iniziate ad avvertire un po' il caldo. Certo, ci fa piacere, ma che cosa fate? Avete già magari cambiato il di allenamento? Lo fate verso sera? Avete anticipato? Raccontateci un po' i fatti vostri, a noi piace sempre. Dobbiamo chiamare anche l'angiologo per preparare la nostra circolazione anche a questo appuntamento. Senti, te ne leggo un'altra invece di notizia. Questa è divertente. Sai che ieri negli Stati Uniti Wall Street, te l'avevo raccontata, è stata chiusa perché c'era il Memorial Day. E per qualcuno si tratta, questa ricorrenza che in realtà è storica e richiama alla memoria ben altro rispetto all'andamento dei consumi, sarebbe il nuovo Black Friday. Perché negli Stati Uniti le feste nazionali e i grandi eventi coincidono spesso e sono identificati con la vendita di determinati prodotti. Il Memorial Day, spesso associato soprattutto alle vendite di materassi, si è trasformato negli ultimi anni in un evento molto più ampio, a metà strada fra i due Black Friday, perché c'è quello tradizionale e poi quello cyber, quello che si fa online. E quindi per questo ci sono molte offerte, ottime possibilità di fare buoni affari nel lungo weekend del Memorial Day e anche nella settimana seguente. Negli Stati Uniti in questi giorni si sbizzarrisco. Difficile. Chissà se andranno a sentire i consigli che abbiamo dato sulla scelta del materasso. Devono esserci. Ti è piaciuta questa? Ma questa è proprio, non me l'aspettavo. Bene. Allora, senti, tu oggi fai il bilancio finale della salute, vien parlando, se non ricordo male, vero? Brava. Invece io mi occupo di tutti quelli, di tutti quei passeggeri che magari sono capitati in questo weekend nel Regno Unito e sono rimasti vittime dei disagi causati da British Airways, e poi nella seconda parte invece per i denari ci occuperemo della eliminazione della circolazione a breve delle monetine da 1 e 2 centesimi. Non sarà anche un grave problema, in realtà molti hanno sollevato diverse questioni. Per tutto questo c'è sempre il nostro numero verde, il nostro amico 800 24 00 24, oppure WhatsApp al 349 238 6666. Si parte anche oggi. Allora, come sapete, se ne è parlato molto in questi giorni, oltre allo sciopero di domenica dei dipendenti Alitalia, magari a queste giornate di agitazione di Alitalia dovremo abituarci fino a quando non si chiarirà la situazione del destino della ex compagnia di bandiera. E comunque questo sciopero di domenica italiano ha avuto meno conseguenze negative del previsto. Un altro problema con una grande compagnia aerea ha invece provocato enormi disagi a migliaia di passeggeri. Una catastrofica avaria informatica, pensa a Nicoletta come è stata definita, ha mandato tra sabato e domenica in tilt i computer della compagnia di bandiera britannica, appunto la British Airways. Una giornata di passione negli aeroporti del Regno Unito, non solo, con centinaia di voli cancellati. Tutto sarebbe nato da un banale guasto elettrico che ha provocato però un vero e proprio stato di emergenza, investendo in particolare gli aeroporti di Heathrow e Gatwick, i due maggiori scali di Londra, dove i decolli con la sigla BA sono stati annullati tutti. Allora, intanto vi chiedo, quindi se volete fate in tempo a raccontarcelo all'800 24 00 24 o al 349 238 6666, siete tra i malcapitati rimasti vittime dell'avaria informatica della British? Chissà se potrete essere risarciti, indennizzati, siete stati riprotetti, o comunque la cancellazione del vostro volo vi ha provocato anche dei danni, perché insomma, se siete rimasti anche prigionieri dell'aeroporto, non avete magari potuto raggiungere sicuramente la vostra destinazione, magari avete mancato anche un importante appuntamento di lavoro. Allora, per capire un po' cosa potrà succedere, abbiamo richiamato in soccorso gli amici di Air Help. Lorenzo Asuni, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Allora, tra l'altro, ovviamente la paralisi ha riguardato in particolar modo gli scali inglesi, ma con un effetto catena globale inevitabile. Ci sono stati almeno 5 voli rimasti sulla pista di Fiumicino a Roma e 800 persone costrette a rinviare la loro partenza. Allora, Asuni, Air Help, cosa vi siete trovati a gestire in questi giorni? Vi sono arrivate già tante richieste di intervento, di assistenza, di delucidazione rispetto a come comportarsi adesso nei confronti della compagnia inglese. Ci dà qualche notizia dell'ultima ora rispetto a questa situazione? Assolutamente sì, diciamo che è stato un fine settimana di passione in Air Help, perché oggettivamente è stato veramente uno scandalo, ma comunque un problema che ha afflitto non solo gli aeroporti di Heathrow e Gatwick, come hai anticipato tu, ma a catena, con effetto domino, tutti gli altri aeroporti di tutta Europa, perché in sostanza il sistema IT di British Airways è in crash e non è potuto partire nessun volo della compagnia aerea per circa 2 giorni. Quindi solo nella giornata di sabato sono rimasti a terra circa 1000 voli solo a Londra tra Gatwick e Heathrow. 1000 voli, immaginate quanti passeggeri danneggiati. Circa 130.000, quindi immaginate di cosa stiamo parlando. Allora, detto questo, che diritti hanno adesso queste persone, questi passeggeri? Per esempio il risarcimento integrale della spesa per il volo? Assolutamente sì, infatti ci siamo attivati questi giorni per capire se i voli fossero eleggibili sotto regolamento europeo, e tutti questi voli hanno diritto non solo al rimborso, visto che c'è stata la cancellazione, quindi il rimborso del biglietto, dell'intero prezzo pagato per il biglietto, ma anche un risarcimento pecuniario che, come si sa, è di da 250 a 600 euro. Che cosa suggerite di fare intanto? Di fare un primo reclamo alla compagnia per capire se magari intraprenderanno anche delle azioni globali di indennizzo, sostegno finanziario ai passeggeri che sono stati danneggiati, dati i numeri, oppure di venire direttamente da voi? E magari ricordiamo anche qual è il vostro lavoro, Lorenzo, appunto, che tipo di struttura di assistenza mettete in campo nel caso appunto in cui si verifichino queste situazioni. Questa peraltro è sicuramente clamorosa, ma voi riuscite ad intervenire anche a distanza di tempo, magari di una situazione di disagio per un passeggero appunto che voglia chiedere un indennizzo ad una compagnia del quale appunto si ritiene danneggiato. Asuni, diciamo che con Air Help ci stiamo impegnando proprio per risolvere il problema che hanno milioni di passeggeri di non saper come ottenere questo risarcimento, perché è un procedimento abbastanza lungo. Noi consigliamo innanzitutto di salvare tutto quello che sono i documenti, ricevute, carte d'imbarco, tutto quello che comunque si è, diciamo, collezionato in questi giorni, e magari verificare immediatamente andando sul nostro sito www.airhelp.it, inserendo i dati del volo, e verificano in 2 minuti se il loro volo British Airways ha diritto o meno al risarcimento. Ma è probabile che, diciamo, tutti quelli che sono stati cancellati in questo weekend abbiano la possibilità di essere risarciti, oppure in qualche maniera, secondo te, Lorenzo, la compagnia si può anche difendere dicendo che, ne so, questo guasto elettrico è stato determinato da cause non dipendenti dalla nostra volontà? Esiste già qualche presa di posizione della compagnia in questo senso? La compagnia aerea ha riconosciuto l'errore, per prima cosa. Innanzitutto, poi, anche se l'errore fosse dovuto a un sistema, magari un partner terzo che ha creato questo determinato disagio, la compagnia aerea, una volta che il passeggero si rifà sulla compagnia aerea, la compagnia aerea a sua volta può rifarsi sul terzo partner. Ma in questo caso il passeggero deve agire o tramite noi o comunque in altre vie, direttamente sulla compagnia aerea, secondo quello che è infatti il regolamento europeo, che tutela i diritti dei passeggeri fino a 3 anni dalla data del volo. Fino addirittura a 3 anni, per cui magari, ecco, chi già in questi giorni si affanna a cercare delle informazioni per essere risarcito, che se la può prendere anche un momentino con calma, ripristinare la sua vita ordinaria dopo il disagio del weekend, perché tanto c'è sicuramente del tempo. Allora, intanto c'era un ascoltatore, Aldo, che mette in discussione il fatto e la motivazione addotta per questa clamorosa vicenda del weekend di British Airways, e dice: il guasto elettrico è una balla colossale, sono sistemi sofisticatissimi. Ma voi, Asuni, che idea vi siete fatti rispetto a quello che è accaduto? Ci può stare, insomma, vabbè che viviamo nell'era della tecnologia in cui tutta la nostra vita è impostata da macchine il cui funzionamento naturalmente a noi sfugge, ma in realtà ci può anche stare che si verifichi una situazione di questo tipo, anche se le proporzioni sono state enormi. Diciamo che è una situazione che è già avvenuta in passato. Sì, è vero. È successo di gestire un caso Delta circa penso un anno, quasi un anno fa, che ha praticamente lasciato a terra migliaia di voli, praticamente la stessa situazione che si è venuta a creare con British Airways. È successo con un'altra compagnia americana, sempre United, un problema simile. C'è da dire che comunque l'aumento, diciamo, della tecnologia a disposizione delle compagnie aeree, allo stesso tempo il cercare da parte delle compagnie aeree di ridurre i costi, diciamo che non aiuta comunque a mantenere il livello di standard di qualità e comunque anche evitare questi problemi nella maniera migliore, diciamo. Bene, intanto grazie a Lorenzo Asuni, AirHelp, per essere stato con noi. Tienici al corrente appunto delle iniziative che le persone coinvolte in questa vicenda del weekend appunto prenderanno, così magari torneremo a raccontarle. Grazie. C'è, a proposito di voli, giri e quant'altro, andiamo al volo a sentire esatto. Che cosa succede sulle strade. C'è il traffico tra poco. Cuore e denari. I giovani hanno i capelli lunghi e le basette come cespugli. Nelle magliette la verità, i giovani girano per la città. I giovani parlano con i muri ma non ascoltano la risposta. Hanno una scritta sulla maglietta e non domandano quanto costa. I giovani sono dentro i sondaggi, catalogati in percentuale. I giovani, i nostri ragazzi, i nostri figli adolescenti. Ma ce l'hanno la testa? Bene sì, ce l'hanno. Chissà tante se volte qualcuno di questi era a Londra nel weekend. Tante volte ci viene un po' il dubbio, no? Forse glielo diciamo. Ma che cos'ha in testa, pensando che sia vuota? In realtà il loro cervello è più piccolo per quanto riguarda le dimensioni, ma sembra avere buone prestazioni. Le neuroscienze da anni sono interessate e studiano il cervello degli adolescenti, raccogliendo delle informazioni molto importanti che in qualche modo ci rassicurano. In linea con noi abbiamo Alberto Pellai, che ci dà ulteriori rassicurazioni ma soprattutto ci aggiorna sullo stato della ricerca. Ciao Alberto. Buongiorno a tutti. Posso dire, ricercatore all'Università di Milano, psicoterapeuta dell'età evolutiva, ha scritto numerosi saggi che sono, devo dire, in cima alle classifiche. Noi siamo molto contenti. E a proposito dell'età dello tsunami, racconti anche cosa dicono le neuroscienze del cervello dei nostri ragazzi, che è in fase, diciamo, di trasformazione. Alberto. Sì, le neuroscienze ci hanno proprio permesso negli ultimi 15-20 anni di vedere cosa c'è nella testa dei nostri figli. È una novità assoluta, perché effettivamente non riuscivamo a comprendere queste enormi trasformazioni che connotano il passaggio da infanzia a preadolescenza e da preadolescenza ad adolescenza. Fondamentalmente si è scoperto che fino ai 14-15 anni c'è una sorta di incremento di volume, quindi è come se si spessissero alcune zone del cervello dei figli, in particolare quelle dei lobi frontali. Poi improvvisamente invece il volume diminuisce e uno dice: ma come, stanno già perdendo neuroni? In realtà questa ricerca racconta e parla di densità: aumenta la densità, perde volume ma aumenta la densità. E noi potremmo anche dire che il concetto forse chiave per capire che cosa cambia in modo significativo è che aumentano le integrazioni tra le diverse aree neuronali, cioè varie zone del nostro cervello si connettono fra di loro attraverso autostrade di reti neuronali e di collegamenti sinaptici, e questo fa sì che per esempio la zona A si collega alla zona B e alla zona C, e il comportamento perciò in un'area specifica della nostra vita viene controllato, regolato e sostenuto da più aree del cervello, e in questo modo diventa più completo, più complesso, più funzionale. Allora, la ricerca che vi stiamo raccontando, vi diamo i riferimenti se volete saperne di più, è fatta dai ricercatori dell'Università della Pennsylvania, e gli studiosi hanno valutato ben 1189 bambini e ragazzi tra gli 8 e i 23 anni con la risonanza magnetica e hanno prodotto questi risultati. Alberto, tra l'altro, a proposito di cervello e di neuroscienze, sicuramente conosce bene il funzionamento del cervello degli adolescenti, chi ha ideato questa nuova competizione online, un gioco terribile, la Balena Blu, che attraverso 50 regole dettate da un curatore spingerebbe i giovani al suicidio. I giocatori sono di età compresa tra i 10 e i 17 anni. In Russia, dove è nata questa assurda competizione, si contano finora 157 vittime, tra l'altro tutte minorenne. In Italia per i casi segnalati alle forze dell'ordine sono più di 40. È il nuovo incubo della rete, ne hanno parlato anche programmi di Radio 24. Noi naturalmente vogliamo dare un taglio alla Cuore dei Nari, e c'è un taglio di così, istruzioni per l'uso ai genitori all'ascolto, perché sta cambiando qualche cosa e questo gioco lo dimostra. Alberto. Sì, devo dire che parlando con i genitori, incontrandone tanti nelle ultime settimane, il fenomeno Blue Whale è forse quello che ha messo più paura nel mondo dei pensieri e delle fantasie dei genitori, che chiaramente vogliono proteggere i loro figli in ogni situazione. Negli ultimi anni la mia percezione era che i genitori erano molto attenti alla protezione dei figli nella vita reale e invece parecchio disattenti rispetto a proteggere i figli nella loro vita online, fondamentalmente perché la vita online non veniva percepita come pericolosa sull'incolumità fisica dei figli. Uno sta nella sua stanza, il genitore è bello tranquillo perché non si farà male, poi magari invece fa delle cose che sono molto lesive per il suo equilibrio emotivo o psicologico, ma di questo i genitori non avevano consapevolezza. Ecco, Blue Whale ha un po' sollevato questa preoccupazione che tutte le mamme e papà devono avere per la vita online dei propri figli. Devo dire che, per come è raccontato Blue Whale, sembra davvero un po' un sistema fortemente incardinato sulla conoscenza di cosa succede nel cervello di un preadolescente, di un giovane adolescente, perché le istruzioni sono la prima cosa: costruire una zona di omertà, cioè viene dato l'ordine che nessun adulto deve essere mai reso consapevole di quello che succederà dentro la prova. E quindi il messaggio primo che possiamo dare come genitori ai nostri figli è che io devo essere informato di qualsiasi cosa strana succede nella tua vita online. Il secondo aspetto è che il gioco sembra proprio entrare nei meccanismi di costruzione delle reti di integrazione di cui abbiamo parlato prima, per esempio danneggiando le funzioni di sonno. Viene dato il comando ai ragazzi di svegliarsi alle 4:20 del mattino con una fortissima deprivazione di sonno, e al tempo stesso per giorni e giorni i ragazzi devono somministrarsi degli stimoli come film dell'orrore estremi oppure musiche che hanno caratteristiche specifiche, che sono proprio un po' quelle modalità con cui il cervello viene fortemente attivato nella sua parte bassa, che è la parte emotiva, è un po' sconnesso nelle funzioni di integrazione, sempre quelle di cui parlavamo prima, che sono invece nella parte alta, le funzioni cognitive. Ecco perché è un gioco davvero, così per come viene raccontato, io non ne ho mai esperienza, anche cercando un po' sull'online trovo descrizioni del gioco, ma non ho mai trovato nessun genere di reclutamento attivo al gioco. Quindi ecco Alberto, veniamo qua, perché molte mamme, molti papà si staranno domandando se i propri ragazzi sono stati agganciati o siano a rischi di aggancio da parte di questa nuova terribile moda, e come intercettarle, soprattutto come comportarsi, come parlare ai ragazzini che sicuramente a loro volta ne avranno sentito parlare dal gruppo di riferimento. Ma intanto io direi che questo è proprio un tema di cui una mamma e un papà devono parlare con il proprio figlio, mentre spesso l'approccio dei genitori rispetto alle cose che spaventano tanto non è quello di dire nessuno dica niente, mica che poi gli viene in mente di fare qualche cosa che poi non sappiamo gestire o controllare, e questo proprio scardina invece la base dell'educazione. Nella relazione tra un genitore e un figlio, tra un educatore, uno studente e un ragazzo, la base invece è proprio il dialogo, parlare, permette a un ragazzo di risolvere molte di quelle ansie, angosce, dubbi, domande, quesiti che ha dentro e che nel silenzio invece rimangono irrisolte e spesso spingono poi ad esplorare in altri territori, in altri lidi. La mia percezione per esempio è che davvero bambini e ragazzi hanno parlato tantissimo fra di loro di questa cosa, spesso spesso spaventandosi vicendevolmente, e invece non sono riusciti a parlarne con gli adulti di riferimento. Allora, Paolo ci scrive: questo gioco al suicidio intrapreso dai ragazzi dimostra che non hanno interessi, che hanno una vita vuota e i genitori sono in parte responsabili, perché dovrebbero accorgersi di questo. Questo è il messaggio di Paolo. Ma secondo te, Alberto, come si può trovare un modo per continuare a fare i genitori anche nella vita online dei figli? Non è semplice. Da una parte bisogna in qualche modo sentire che lo vogliamo fare, cioè a me capita spesso di incontrare mamma e papà che, di fronte al fatto che il loro bambino di 10-11 anni ha messo la password sul proprio smartphone e ha detto questa è la mia zona di privacy, tu non ci puoi entrare, hanno declinato e hanno rinunciato a sentire che invece quella è una zona in cui si sta di fianco a un figlio che dice non entrare nel mio smartphone fa il suo mestiere, perché nessun ragazzo vuole essere controllato, monitorato dagli adulti, ma un adulto deve, io spesso parlando con gli adulti dico provate a immaginare se vostro figlio un sabato sera a 12 anni vi dice ciao ma, ciao pa, io vado fuori di casa, vado in quel posto là, incontro quelle 400 persone là, faccio quelle cose là, poi torno a casa. Nessun genitore lascerebbe un 12enne uscire con questa totale assenza di informazioni. Però sull'online lo permettiamo, perché ne incontrano ancora di più. Alberto, ti devo salutare perché dobbiamo dare la linea al nostro GR. Torneremo naturalmente su questo tema, perché arrivano anche tanti messaggi di richieste di aiuto dei genitori e di confronto. Alberto, grazie, ti auguriamo una buona giornata. Anche a voi buona giornata. E noi andiamo a sentire il nostro GR, poi ritorniamo di nuovo insieme, vero Deborah? Sì, sì, assolutamente, tra poco. Pierluigi Pardo, confesso che ho perso il numero delle stagioni. Hai perso il conto perché abbiamo una marea di cose: la Champions League, l'Europa League, il campionato, il calcio internazionale. E poi? E tutti i giorni, tutti convocati. Guarda, è facile: tutti i giorni, tutti convocati. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15.30, c'è anche De Luca. C'è anche De Luca, è il nostro autore, ma certamente siamo ormai una squadra affiatata, anche se ho perso il conto delle stagioni. Di siamo una squadra fortissimi. State ascoltando un programma offerto da Investi con Anima, il gruppo leader del risparmio gestito italiano. Cuore e denari. Piccolo, rosso, panciuto, gaio. Ecco il mio amico Salvadanaio. Appena posso, gli metto in bocca qualche moneta, ma non la tocca. La tiene in serbo pieno d'orgoglio, pronto a ridarmela quando la voglio. Chicco su chicco s'empie il granaio. Ecco il mio amico Salvadanaio. È carina, la filastrocca del Salvadanaio. Molto. Adesso la insegnerò ai miei nipotini. E questo è un suggerimento che ci arriva da un amico di Cuore e Denari. Io lo saluto subito intanto. Massimo Melpignano, avvocato dei consumatori. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. La filastrocca, sentito che sorpresa, è tratta dal suo libro SOS Salvadanaio, La felicità del risparmio. Melpignano, come prosegue poi? In tempi di crisi. Esatto. Ecco, è preparato, vedi che ha studiato. Infatti ha studiato, il libro l'ho scritto lui naturalmente. L'ho scritto io, esatto. Allora, perché abbiamo scomodato la filastrocca e anche il libro di Massimo Melpignano, soprattutto Massimo Melpignano? Perché lui ha molto a cuore il tema che affrontiamo questa mattina. Allora, intanto vi faccio un veloce riassunto delle puntate precedenti. Prima hanno pensato ai pezzi grossi, adesso a quelli piccolissimi. Prima, infatti, la Banca Centrale Europea ha deciso di ritirare dalla circolazione le banconote da 500 euro, una misura antiriciclaggio e anticriminalità. La novità di questi giorni invece è tutta italiana e riguarda invece il fatto che a breve spariranno dalla circolazione anche le micromonetine, quelle da 1 e 2 centesimi, che dal prossimo 1 gennaio appunto non verranno più coniate, quindi spariranno del tutto, quantomeno verranno progressivamente ritirate. La Commissione Bilancio della Camera infatti nei giorni scorsi ha dato il via libera all'emendamento Boccadutri, perché sospende appunto dal 2018 il conio di queste monete. È una misura che è stata dettata dagli oneri che il nostro sistema deve sostenere in rapporto all'utilizzo di questo taglio. Ci saranno però molte conseguenze pratiche sui prezzi di beni e servizi, tanto che l'impatto della norma è già stato preannunciato, sarà monitorato dal garante dei prezzi, che dovrà riferire su base semestrale al Ministero dell'Economia le eventuali anomalie. Che anomalie? Le associazioni dei consumatori paventano già arrotondamenti selvaggi dei prezzi. E non sono solo queste però le questioni sollevate dalle associazioni dei consumatori, allora se ne è fatto un po' portavoce l'avvocato Melpignano, e quindi chiedo a lui un aiuto su quelle che saranno le attenzioni che dovremo fare rispetto a questo fenomeno, che sembra veramente di poca portata. In realtà ci sono anche molti aspetti educativi che le associazioni dei consumatori hanno sollevato. Adesso ne parliamo. Chiedo intanto ai nostri ascoltatori di raccontarci all'800 24 00 24, voi che ne fate delle monetine da 1 o 2 centesimi? Vi danno davvero così tanto fastidio? Ne parlavamo con Nicoletta, cioè a me vanno a finire sempre in fondo alla borsa, spariscono dal portafoglio, ma noi siamo fortunate perché qui la macchinetta del caffè della nostra azienda le possiamo utilizzare. No, tu non sei così, no, di questo, no, parere. Ma insomma, no, certo, non danno fastidio, sono sempre da tenere, sempre, per soldi, carità, certo. Sono sempre soldi, però è difficile poi trovarli al momento giusto, quando si perdono un po'. Lo chiediamo anche agli ascoltatori, le state raccogliendo, le usate normalmente nei negozi, ci state riempiendo un salvadanaio? Ma il Corriere della Sera qualche giorno fa scriveva proprio: rifiutate dai distributori automatici, odiate dai consumatori, sputate dalle macchinette per la sosta auto e mal sopportate spesso anche dalle cassiere dei supermercati. Brava. Che ogni giorno ne collezionano una valanga. Insomma, queste monetine hanno appesantito le tasche degli italiani dall'ingresso nell'euro, una montagna di ferro che nel 2002 ha raggiunto la ragguardevole cifra di oltre 6 miliardi di monete emesse. E però il peso di questi centesimi è enorme ed economico, perché ogni moneta da un centesimo, per ogni moneta da un centesimo i costi a carico dello Stato ammontano a 4,5 centesimi, mentre per ogni moneta da 2 centesimi il costo è di 5,2. Allora, avvocato Melpignano, intanto per quale ragione andrebbero tolte ritorno, oltre a queste che abbiamo spiegato? Sono queste fondamentalmente le motivazioni? Ma adesso mi tocca fare l'avvocato del centesimo. Esatto. Non del diavolo, sempre meglio che del diavolo. Esatto. E quindi anzitutto vorrei conoscere nomi e cognomi di quei consumatori che odiano i centesimi o di quelle cassiere che si lamentano dei centesimi, perché sarebbe importante capire chi ha fornito questa informazione. Secondo me non dobbiamo mai dimenticare una cosa importante. Stiamo parlando di soldi, avete detto una cosa molto giusta, sono soldi che appesantiscono le nostre tasche, finalmente ce li hanno alleggerite fino ad ora le tasche, e allora vuol dire che adesso ci stiamo facendo togliere qualcosa che appesantiva le nostre tasche. Il problema però, guardi, è un po' più ampio, ora questo servito un po' per introdurre sul tema. Sotto il profilo tecnico credo che due rapidissime precisazioni vadano operate. Questa norma sospende il conio delle monete da un centesimo o da 2 centesimi, fino a quando non è scritto. E tutti noi sappiamo come in Italia non ci sia nulla di più definitivo del provvisorio, e quindi questa cosa mi allarma. È chiaro che poi la norma prevede un'altra distinzione, demanda al Ministero dell'Economia e delle Finanze di stabilire delle modalità pratiche, perché i pagamenti per contanti subiranno un arrotondamento. Esatto. I pagamenti non per contanti, quindi con le carte, invece continueranno ad utilizzare i centesimi. Certo. Quindi se io andrò a fare la spesa, a comprare il mio quantitativo settimanale di frutta e verdura, e magari spendo, non lo so, faccio una cifra, 20,33 euro, se pago in contanti questa cifra verrà arrotondata o in eccesso o in difetto. Più probabilmente in eccesso, sospettano le associazioni dei consumatori. Nel caso in cui invece il fruttivendolo mi consenta di pagare con il bancomat, con uno strumento elettronico pagherò la cifra esatta, e già questa è un'anomalia, a meno che non arrotondi dall'inizio anche, che ne so, il... No, ma non credo che sia possibile, appunto, avvocato Melpignano. E qui casca l'asino, nel senso, questo arrotondamento riguarda che cosa? Il conto finale o i singoli prodotti? Infatti. Quindi arrotondiamo la zucchina, i peperoni, i pomodori, o soltanto il conto finale? Infatti. E poi guardi, lei ha parlato del fruttivendolo, dove facciamo la spesa quotidiana. Pensi alla grande distribuzione, che invece si fa vanto di, dello sconto compra 9,99, cose di questo genere, e poi di fatto incentiva l'uso delle carte di credito. Quindi avremo sostanzialmente due binari: la grande distribuzione che di fatto continuerà a privilegiare il vantaggio del centesimo anche solo per fini promozionali, la bottega sotto casa che dovrà in qualche modo fare spallucce e cercare o di venire incontro al cliente arrotondando al ribasso, certo, o provare ad arrotondare al rialzo. Certo, poi il tema peraltro sulla questione del controllo delle possibili anomalie vigilerà, dicevamo prima, l'antitrust, l'autorità garante del mercato, ma il tema è come vigilerà, perché non potrà certo andare a verificare il comportamento di ogni singolo e il fruttivendolo e tutti gli altri esercizi commerciali che potrebbero essere interessati appunto da fenomeni di questo tipo. Anche il monitoraggio evolve i consumatori a segnalare il comportamento di ogni singolo negoziante. Eurodocet potremmo dire, abbiamo visto tutti quello che è accaduto con l'arrotondamento delle entrate conseguente all'entrata in vigore dell'euro. Però guardi, io credo che sia, diciamo, vada spostato un po' l'attenzione, perché stiamo già ragionando di controlli, che significa che stiamo già dando per scontato che le tutti cose si comporteranno esatto, non correttamente, e che non fileranno. Guardiamo invece quello che accadrà sulla nostra sfera individuale e personale. Ecco, realmente cominceremo a percepire come un fastidio questi arrotondamenti al centesimo, perché pagamento per contanti non ne potremo fare, saremo costretti ad utilizzare le carte di pagamento, il che significa che chi non ce li ha dovrà organizzarsi, chi tende ad usarle poco, mi riferisco ai piccoli negozianti che sopportano un costo importante per avere il POS, di commissioni bancarie eccetera, saranno invece costretti a dotarsene, e questo è già in realtà previsto, o comunque ad incentivarne l'uso. Adesso andremo anche agli altri aspetti che lei invece, come appassionato di educazione finanziaria, solleva, che sono proprio le questioni educative, perché dice insomma anche con l'utilizzo delle piccole monetine potevamo insegnare il valore del denaro, l'attitudine al risparmio appunto ai giovani. Adesso ci arriviamo anche su questi aspetti. Intanto vi leggo un paio di messaggi di alcuni ascoltatori. Andrea da Modena scrive: ma l'arrotondamento presente nella norma è sempre verso la cifra superiore? No, nessuno dice niente, Andrea, ma noi già immaginiamo, sempre con il nostro fare un po' da viperette, che molti si adegueranno al rialzo e non al ribasso. Se sì, che gettito in più ci sarà per gli esercenti? Sembrano bruscolini, ma è proprio con i piccoli punti che si vince a briscola. Insomma, e poi ecco, anche trattare sempre in questa maniera gli esercenti come quelli pronti a fare gli avvoltoi delle situazioni non ci piace neanche, quindi col massimo rispetto stiamo anticipando quello che potrebbe succedere, ma naturalmente sempre perché siamo un po' in cattiva fede. Le monetine le odio, ci dice un ascoltatore. Con le 10 lire ricordo la stessa cosa, mia nonna da piccola diceva non le vuole neanche il prete. Ecco, per me coi centesimi è lo stesso, cerco di liberarmene il prima possibile. Chiara da Trento ci scrive che sono le uniche monete che trova nelle tasche dei suoi figli, tre figli maschi, di suo marito, quando lava i pantaloni. Ecco, insomma, come si chiama Chiara? Chiara, sì. le metta dentro un salvadanaio, che alla fine, insomma, zitto zitto, magari una quindicina di euro alla fine dell'anno ce le troviamo e qualche cosa ci possiamo fare. Alex Ricchebuono, esperto di storia economica, un nostro amico che lavora nel mondo della finanza, ma in realtà è un grande appassionato d'arte e di tanti aneddoti legati alla storia finanziaria. Insomma, non so in che maniera ripresentarlo il nostro amico Alex. Ben ritrovato intanto a Cuore Denari, buongiorno. Buona Deborah, grazie mille, buongiorno a tutti. Senta Alex, secondo lei, che è un esperto di questi argomenti, insomma, vale la pena conservarne qualcuna prima di non trovarle più in circolazione? Magari fra qualche tempo varranno un po' di più rispetto al loro valore nominale di adesso? Allora, cominciamo già a dire una cosa interessante, anche da chi è appassionato come me della storia della finanza, no? Questo è un caso emblematico, perché queste monete vengono ritirate perché il loro valore intrinseco è superiore rispetto al valore facciale, cosa che nella storia della monetazione non è quasi mai accaduto. È accaduto sempre il contrario, cioè che il metallo che era contenuto all'interno delle monete valesse magari di più della moneta stessa, non il viceversa, perché come diceva giustamente il collega prima, oggi tra stampa e creazione di queste monetine il costo unitario è superiore al loro valore facciale. Peraltro quasi nessuno sa che sono fatte per la gran parte di acciaio, quindi non di ferro, ma di acciaio per il 95% e per circa un 5-5,5% di rame. E qui casca l'asino, si dice, perché il rame ha un valore esatto, ricasca l'asino, ha un valore molto elevato, per cui questo è facile capire, ne fa aumentare il valore complessivo. Detto questo, ci sono già delle piccole monetine. I tagli delle monete dell'euro sono 8, quasi nessuno sa che esiste un dritto e un rovescio, perché ce li teniamo in tasca, non le guardiamo neanche. Mentre il rovescio è quella faccia della moneta che è comune a tutti i paesi europei, il dritto invece è diciamo personalizzato a seconda della nazione. Zecca, esattamente, della zecca e della nazione che lo crea. E esistono già dei casi emblematici di monete da 1, 2, 5 centesimi, ma anche a tagli superiori, che sono molto rare, perché le zecche le hanno coniate hanno interrotto la connessione, oppure hanno fatto degli errori qualche volta, perché ci sono anche storie di errori di conio molto molto famosi e molto anche dal punto di vista economico di valore, perché poi in realtà per chi ne ha scoperti si è ritrovato un piccolo tesoretto, no? Bravissima, e qua infatti questo è il punto più ricasca il terzo asino. Esatto, ricasca il terzo asino, e questo è l'asino più pesante, perché pensate che proprio all'inizio della coniazione ufficiale dell'euro nel 2002 la zecca italiana fece un errore e coniò circa 7.000 monetine da 2 centesimi con da 1 centesimo con sul dritto il simbolo, l'opera d'arte che doveva stare invece su quella da due, in particolar modo la mole antonelliana fu stampata al posto di Castel del Monte su circa 7.000 monetine. Vennero quasi subito ritirate, tranne un numero ridotto, probabilmente non più di un centinaio, che erano contenute dentro i blister, quelle confezioni di plastica che servivano per sia le banche che gli istituti di credito per conoscere le nuove monete, no? E che valore hanno adesso queste monetine, se qualcuno per sua fortuna se le ritrovasse in fondo ad un portafoglio in una tasca? Allora, sarebbe una fortuna straordinaria, perché come dicevo ce ne sono circa un centinaio probabilmente in circolazione, ma nel 2013 una di queste monete è stata battuta all'asta per 6.600 euro. Ma guarda un po', magari ce l'avevo anche io, l'ho buttata nella macchinetta. Quindi del caffè. Quindi c'è la mole antonelliana. E l'altra opera qual è? Allora, al posto di Castel del Monte. Esatto, quello che c'è in Puglia, meraviglioso, a pianta ottagonale, ci sta invece la mole antonelliana, che di solito invece sta sulle monetine da 2 centesimi. Chiarissimo. Per cui questo errore, che ripeto, tra l'altro fu anche alla base di un contenzioso, perché la zecca italiana decise di ritirarle dalla circolazione e bandendole proprio, e aprì un contenzioso con una casa d'aste italiana che ne aveva una manciata di queste, e per 10 anni andarono in tribunale e la casa d'aste vinse poi la causa in tribunale. Ci sono dei retroscena rispetto alle vicende che noi raccontiamo che ci sfuggono sempre e hanno dell'incredibile, quindi grazie anche ad Alex Ricchebuono che si è andato a recuperare questa storia per noi. Adesso tu vedrai quanto ci staranno più attenti a spendere le monetine da 1 o 2 centesimi. Adesso improvvisamente tutte la mole a posto di Castel del Monte. Prima di salutare, allora, intanto Alex, grazie per essere stato con noi, grazie anche per questo voi, lavoro di ricostruzione storica. La torneremo a disturbare presto, magari per altri aneddoti divertenti e sempre costruttivi come questo. Volevo sentire rapidamente Roberto dalla provincia di Milano, perché in realtà solleva una questione che avevo notato anch'io dagli scontrini. Roberto, benvenuto rapidamente, grazie. Buongiorno, sentite? Sì, veloce, grazie. Allora, che siamo velocissimo, chiedendo. Vedo l'orario. Allora, qualche catena di grande distribuzione già da anni, da quando è stato introdotto l'euro, fa un arrotondamento sullo scontrino finale di qualche centesimo. Se viene un conto di 11,37 fa 35. Certo. In effetti il problema, secondo me, è quello di bisognerebbe, a fronte di questi discorsi, non so cosa succede adesso nel resto dell'Europa o del mondo. In molti paesi hanno già abolito da tempo queste monetine, è successo in Finlandia, in Olanda. Secondo me bisogna incentivare l'utilizzo del pagamento elettronico, infatti le carte di fidelizzazione più delle volte servono anche a quello. Io pagherei anche il giornale e il caffè. Roberto, guardi, sfonda una porta aperta, lo farei pure io, questo è un tema di grandissimo dibattito. Ci sono delle persone che hanno invece degli ostacoli mentali, culturali, pratici insuperabili e non ne vogliono sentir parlare. Ancora in Italia è il paese appunto del contante, per cui fa fatica a fare questo passaggio. E un po' so che anche Massimo Melpignano ha di questa idea, la costrizione dell'utilizzo dello strumento elettronico di pagamento non gli piace. Melpignano, in un minuto, anche un po' meno se ce la fa, poi ci ritorneremo, perché lei solleva anche la questione educativa nei confronti dei nostri ragazzi che deriva dall'abolizione di queste monete. Beh sì, perché guardi, il risparmio è un percorso culturale che parte dal piccolo. Se dovessimo pensare tutti di risparmiare in grande, nessuno risparmierebbe. Io credo che sia molto educativo, perché lo faccio su di me. Io ho il mio salvadanaio con monete da 1 e 2 centesimi e alla cassa non accetto arrotondamenti, insisto per il resto. Inutile dire che pago per contanti. E quindi credo che partire dal piccolo abbia un valore educativo. Ma poi pensate che cosa accadrà adesso. Non smetteremo di contare, cambieremo il modo di contare. Anziché contare 1, 2, 3, 4, 5, passeremo da 0 a 5, perché ci tolgono le monete da 1 e da 2 centesimi. Questa cosa qua gliela condivido, l'aspetto educativo. Sul tema della moneta di pagamento magari facciamo un altro dibattito con lei, Melpignani, in un'altra occasione. Io farò da moderatrice. Eccoci qua. Va bene, tu da che parte stai? Dai, non posso. Dai, non Melpignano versus Rosciani. Io non è che parteggio, diciamo che non guardo con tutta questa preoccupazione se si fa attenzione all'utilizzo del bancomat e della carta. Grazie a Massimo Melpignano per essere stato con noi. Vedo un sacco di messaggi da parte degli ascoltatori che ci segnalano come in tantissimi centri commerciali, insegne della grande distribuzione, si faccia già questa operazione di arrotondamento. Che va sempre fatta la cifra più vicina, ci scrive un ascoltatore. Ed è un ottimo insegnamento da fare in matematica. Se è 3 si va al 5, se è 2 si va al 0. Beh, però io al superiore, se non li hai spesi, non sono d'accordo. Piuttosto fate uno sconto di 2 centesimi e toglietri, no? Quindi eccoli. Terzo tema da proporre, ma magari qua chiameremo la Federdistribuzione, che pure sono grandi amici di Cuore Denaria e da un po' che non li invitiamo. Allora, sì, sono le 11:28. Direi che è tempo di sentirci, guarda, così per gradire un po' di pubblicità, i mercati e poi ritorniamo alla parte di cuore. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Investi con Anima, il gruppo leader del risparmio gestito italiano. Cuore e denari. Stavo riflettendo che se per ogni starnuto mettessimo da parte una monetina, almeno io probabilmente sarei diventata molto ricca. In certi momenti dell'anno sì. Allora, però ci sono starnuti e starnuti, mia bella Deborah, e non tutti sono contagiosi, perché vedo che mi guardi con sospetto quando ti faccio la mia raffica dei 10 o dei 100. Comunque è meglio saperlo. Voi siete capaci, ad esempio, di riconoscere un raffreddore allergico da uno provocato da un virus? Immagino sicuramente di sì, perché ne abbiamo parlato ripetutamente con i nostri esperti di Humanitas. Maggio è il mese della salute dell'apparato respiratorio e quindi diciamo che abbiamo buone probabilità, chiamando l'800240024, avete di portarvi a casa un bel libro chiamando il nostro numero verde. Ma la salute del naso, lo sappiamo bene, non si misura solo dagli starnuti, c'è dell'altro e tanto altro, ma soprattutto in linea per noi e con noi in una puntata speciale, un po' di riepilogo di chiusura, è tornato a trovarci il dottor Luca Malvezzi, medico chirurgo specialista in otorinolaringoiatria all'Istituto Clinico Humanitas e specialista del mese insieme alla professoressa Puggioni. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, Nicoletta, ricca ma non in salute. Metti da parte una moneta, però in salute ne fai così però, tanti. Sì, però sì, ci sono dei momenti in cui devo dire che sono abbastanza starnutosa. Comunque, dottor Malvezzi, a naso direi che sarà una puntata ricca di domande e di interventi dei nostri amici da casa, perché il naso è un argomento che alluzza, ci piace, ci appassiona da più punti di vista. Possiamo parlare di estetica, di funzionalità, ma anche, perché no, di intuito. Ci sono persone, lo sappiamo bene, che ci piacciono o non ci piacciono a naso, e d'altronde la fisionomica, secondo la fisionomica, la forma del naso suggerisce anche delle indicazioni per individuare la personalità del suo possessore. Ma dottor Malvezzi, lei che è un otorino, può dalla forma del naso capire che naso si trova davanti, che può avere evidentemente delle fragilità, dei punti di debolezza, dei problemi, un po' come fanno i dentisti che dal sorriso capiscono lo stato di salute della bocca. Lei, guardando il naso, si fa già un'idea? Ma guarda, allora, guardando il naso si possono scoprire diverse cose. Diciamo che si può scoprire se un naso è stato operato, anche da un punto di vista estetico. Me ne accorgo pure io, ci sono dei nasi che crollano. Esatto, si può capire ad esempio se è stato operato male. Da un punto di vista patologico, una volta, oggi grazie a Dio non c'è più questa patologia, si chiama Wox, quelle poliposi nasali deformanti, anche l'aspetto del volto e la piramide nasale, cioè la parte del naso che noi vediamo. Oggi, come dicevo, grazie a Dio questa situazione non si vede più, però un naso arrossato a livello della punta, un naso prostoso, un naso che gocciola visivamente mentre si raccoglie l'anamnesi del paziente, certamente lascia trasparire qualcosa che a livello del naso non va, e probabilmente anche a livello infiammatorio. Bene, allora, siamo tutti naso, dottor Malvezzi, con lei oggi vorremmo fare una sorta di tagliando, speriamo di farcela. Abbiamo iniziato dalla forma del naso, se volete selfarvi e mandarci la foto del vostro naso, perché no, io la metterò volentieri. Parleremo naturalmente di respirazione, ma raccontateci che cosa fa il vostro naso, come si comporta, se prude, se gocciola, se si arrossa. Sentiamo anche Salvatore da Firenze, che ci ha subito chiamato perché vuole raccontarci qualcosa. Salvatore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei e complimenti per la trasmissione. Grazie. Vi ascolto tutti i giorni quando posso. Grazie. Ecco, Salvatore, volevo chiedere un'informazione all'otorino lì in studio. Sì, non è in studio, peccato, ma comunque, lo sentiamo comunque. No, c'è stato 3 secondi fa. Comunque, senta, no, io ho un problema che mi si formano delle crosticine nel naso, in particolar modo la notte, e poi la mattina mi soffio il naso e vanno via queste crosticine. Poi se me le vado a stuzzicare ancora peggio, per cui volevo capire un pochettino qual è il problema. Qual è il problema e soprattutto cosa deve fare. Allora, cosa devo fare? Bravo, esatto, Salvatore. Grazie a Salvatore. Complimenti nuovamente. Grazie. Dottor Malvezzi, vogliamo proprio fare in questa mezz'ora una sorta di riepilogo, istruzioni per l'uso. Salvatore ha appena citato quello che stavo raccontando io, un naso che produce tante secrezioni nel corso della notte, è un naso che porta poi a seccare queste secrezioni, quindi il paziente spesso soventemente si ritrova col naso secco la mattina, crostoso. Salvatore, la prima cosa importante da fare è non rimuovere le croste, non rimuovere forzatamente, soprattutto se il naso ipersecernente, soprattutto se si sono verificati degli episodi di sanguinamento nasale, la rimozione delle croste porta sistematicamente alla formazione di nuove croste. E quindi crosta. Ecco, l'ideale non è rimuovere meccanicamente la crosta, ma medicare il naso con delle creme emollienti, favorire la riepitelizzazione della mucosa sottostante la crosta, la guarigione, e con un pochino di pazienza verosimilmente questo problema si risolve, ma come sempre dico, deve essere studiato, perché un naso ipersecernente, un naso iperreattivo può nascondere una patologia infiammatoria, e questa necessariamente deve essere studiata. Oggi abbiamo la possibilità di studiarla bene, di etichettarla e di offrire un trattamento adeguato, personalizzato. 800 24 00 24, state chiamando, spazio naturalmente alle vostre telefonate anche per il nostro domandone, se volete candidarvi e raccontare al dottor Malvezzi, che è il nostro giudice, da che cosa sapete, che cosa vi fa riconoscere la natura dello starnuto e dire se è allergico oppure se è un raffreddore, per un banale raffreddore, quindi di origine virale. Dottor Malvezzi, intanto continuiamo il nostro tagliando, cerchiamo di capire come respiriamo. Lei ci ha detto che il naso è molto più di quello che noi vediamo. Certo. Io me lo vedo un po' come una finestra attraverso cui l'aria entra nel nostro corpo, e in questo modo partecipa il naso a una funzione essenziale che è la respirazione. Una funzione così importante e strategicamente vitale che madre natura, oltre al naso, ci ha dotato di un'altra entrata di sicurezza nel caso la prima fosse bloccata, che è la bocca, che è una sorta di canale d'emergenza. Così ci sono persone che respirano sia con il naso sia con la bocca, ma usare il naso, la bocca per respirare non è la stessa cosa, dottor Malvezzi, e soprattutto che cosa ci racconta? Hai detto benissimo, Nicoletta, il naso è una finestra, anzi qualcuno dice il naso è la parte dei nostri polmoni che si può toccare con un dito. È proprio così, il naso è una è una struttura che termoumidifica l'aria. Proviamo a immaginare cosa succede d'inverno quando fa freddo, usciamo all'aria aperta, respiriamo col naso e poi proviamo a respirare con la bocca. Notiamo tutti la differenza di temperatura di aria che arriva direttamente in gola. Il naso ha questa funzione, termoumidifica l'aria, la scalda, la purifica, è un filtro, è lo zerbino dei nostri polmoni. Allora, se il naso, se i sistemi paranasali, che è ciò che poi sta intorno al naso ed è più importante del naso stesso, se il naso, dicevo, funziona male, molto frequentemente funzionano male anche i nostri polmoni. Respirare con la bocca non è la stessa cosa che respirare col naso, è vero, è una porta supplementare, però la nostra respirazione nasale deve essere sempre conservata per conservare quella che si chiama l'omeostasi, buon funzionamento delle basse vie respiratorie. Quindi dobbiamo necessariamente avere cura del nostro naso. Quando il naso non funziona bene perché respira male, quando il naso non funziona bene perché, come dicevi tu, produce tanti starnuti, produce tante secrezioni, abbiamo la sensazione di un raffreddore persistente o quasi, ebbene queste sono tutte situazioni che devono essere studiate non solo in funzione della buona respirazione nasale, ma devono assolutamente essere studiate anche in funzione della buona funzionalità respiratoria polmonare. Quindi su questo bisogna sensibilizzare gli ascoltatori a fare diagnosi. A cercare le cause per avere la giusta terapia. Dottor Malvezzi, molto spesso, quindi meglio respirare con il naso per tutta una serie di ragioni, molto spesso i nostri bambini invece respirano con la bocca aperta e le mamme dicono saranno le adenoidi. Ecco, perché noi mamme cerchiamo sempre di trovare una giustificazione, non sempre quella giusta. È possibile? Che cosa... È vero. Il bambino, degli epiteti del bambino è moccioso. Il bambino viene anche chiamato moccioso perché produce tanto muco. È normale, la conformazione delle vie respiratorie nei bambini è diversa nell'adulto. Soprattutto cosa c'è nei bambini? Ci sono le adenoidi, le tonsille che sono ipertrofiche nella prima infanzia. Adenoidi e tonsille sono tessuto linfatico, servono per completare il nostro sistema immunitario. Quindi quando un bambino incontra un agente esterno patogeno non ancora conosciuto dall'organismo, le adenoidi e le tonsille lavorano di più, allora lavorando di più si ingrossano, è come un muscolo sottoposto all'esercizio fisico. Questo è un dato importante, protettivo per l'organismo, ma certamente spesso questa ipertrofia porta il bambino a respirare male, tendenzialmente con la bocca aperta, tendenzialmente con la bocca aperta di notte. Non è così importante valutare la respirazione a bocca aperta notturna come disagevole, perché nel bambino, dicevo, è normale. Se il bambino durante le ore diurne costruirà normalmente con la bocca chiusa, vuol dire che l'impatto ostruttivo, ad esempio, delle adenoidi non è così importante. Se il bambino non ha nessun difetto uditivo, vuol dire che le adenoidi non sono così importanti da un punto di vista. Quindi quello che fa la differenza è non è tanto la respirazione diurna, ma quella notturna. Quella notturna, rantolante, tenendo però presente che, attenzione, se noi facciamo mente locale in un nostro viaggio aereo notturno, tanti soggetti respirano con la bocca aperta, è una sorta di postura naturale del nostro organismo. Quindi ti cade non la mandibola, Russi, diciamo così, però non è carino, perché quando uno si addormenta in cuor suo dice speriamo no, di non russare, che non mi cada la mandibola con la salivina. Ma non significa necessariamente sono malato o una patologia, quindi attenzione, valutare sempre con calma queste situazioni. Niente falsi miti, niente dogmi, si fa una valutazione serena, otorinolaringoiatra, perché si decide qual è il trattamento idoneo, a volte anche quello chirurgico, però prima di tutto la valutazione, come sempre, serenità nell'affrontare queste situazioni. E allora, a proposito di valutazione, siamo partiti dalla forma, la respirazione, che cosa succede al nostro naso, si secca, prude, gocciola, e, in alcuni casi c'è anche chi, come il nostro ascoltatore, lamentava la presenza di queste crosticine, ci siamo occupati anche dei bambini, ma noi vogliamo anche occuparci del naso che cattura gli odori e del nostro olfatto. Sentite bene gli odori e soprattutto la vostra voce è cambiata. Vi capita che qualcuno, sentendovi al telefono, vi chieda se è raffreddata, quando invece il raffreddore non ce l'avete? Allora continuate a chiamarci all'800 24 00 24, ne parliamo col dottor Malvezzi, ma prima delle informazioni sul traffico, se Paolo mi lascia, farei un saltino a Lucca, perché c'è Lucia che ci porta un pochino più giù, ma insomma è sempre nel tema. Lucia, buongiorno. Buongiorno a voi, bravissime, l'ascolto sempre. Grazie Lucia. Che c'è? Ecco, io problema delle corde vocali. Come lei diceva, se lei sente ancora, io mi sentivo la voce cambiata. Sono passati tanti mesi, ho fatto una visita, mi è stata fatta un esame con una fibra ottica e praticamente mi è stata diagnosticata un'infiammazione cronica sulle corde vocali. Eccola lì, e infatti la voce sembra un pochino roca. Brava, però a me piace, Lucia, ma sentiamo poi che cosa dice il dottor Malvezzi, che l'ha sentita con attenzione, naturalmente dopo le informazioni sul traffico. Cuore e denari. In fondo al mare, in fondo al mare, tutto bagnato e molto meglio, credi a me. Quelli lassù che sbobbano sotto a quel sole svengono, mentre col mondo c'è la spazio. Che c'entra, la sirenetta? Perché noi vogliamo parlare col dottor Malvezzi e dovremmo cercare di farcela prima di chiudere la trasmissione, di qualcosa che non viene dal mare ma ha un nome simile, si parla di molluschi in alcuni casi, ma ne parliamo subito dopo l'indicazione che il dottor Malvezzi può dare alla nostra ascoltatrice. Dottor Malvezzi, lì scendiamo un pochino dal naso, ma è sempre competenza dell'otorino? Sì, certo Lucia. Allora Lucia, le corde vocali infiammate, anche le corde vocali infiammate possono dipendere da un naso che non funziona bene. Frequentemente i pazienti che hanno uno scolo retropalatale costante hanno una situazione di infiammazione costante a livello delle corde vocali. L'infiammazione sulle corde vocali può dipendere ad esempio dal reflusso gastrico. Io la sento malissimo, dottor Malvezzi, non so se devo venire da lei per un problema di otorino. Perché mi sente meglio? Sì, lei cosa stava facendo? Io niente, sono guardi fermo. Che la bacchettiamo, No. Le dicevo che anche il reflusso gastrico può causare un'infiammazione nasale. Anche il paziente asmatico che assume sistematicamente cortisonici per via orale può avere un'infiammazione sulle corde vocali. Ovviamente, non dimentichiamo il fumo. Di sigaretta, il fumo di sigaretta determina a livello delle corde vocali un'irritazione termica e chimica cronica, quindi se la nostra Lucia ad esempio è una fumatrice, questo potrebbe sottendere al problema. Allora, dottor Malvezzi, ci sono delle, quindi delle indicazioni, può fare delle non so, una delle sedute dalla logopedista, potrebbero aiutare anche Lucia e le persone che in generale sfruttano e usano la voce magari in modo non adeguato? Questo è un altro problema, chi utilizza la voce in modo professionale, il medico stesso che parla tutti i giorni con i pazienti, l'insegnante che magari alza il tono di voce per farsi ascoltare dai propri discenti, dai propri studenti, soprattutto quelli delle scuole inferiori, può avere un cattivo utilizzo delle corde vocali. Le corde vocali sono come le corde di uno strumento musicale, se perdono di tensione, quindi se si scordano funzionano meno bene, la voce risulta essere una voce più soffiata, meno efficace, soprattutto queste situazioni insorgono dopo un utilizzo protratto della voce e in questo caso la logopedia, che realmente è una fisioterapia delle corde vocali, può aiutare a ristabilire una situazione di funzionalità adeguata. Allora, dottor Malvezzi, in questa puntata di Riepilogo vogliamo anche parlare di due temi che interessano molto i nostri ascoltatori e sono i polipi e il problema dei turbinati. Allora, sono due condizioni naturalmente diverse che possono essere affrontate, le cause naturalmente prima bisogna indagare le cause, ma dottor Malvezzi, a beneficio dei nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo, mi sono stati diagnosticati dei polipi nasali, oppure se l'intervento per la decongestione dei turbinati attraverso metodiche differenti è definitivo oppure richiede poi un ulteriore passaggio, io le lascerei un paio di minuti per dare le indicazioni, prima di tutto per mettere i nostri ascoltatori nelle condizioni di sospettare la presenza o di polipi o di avere un problema ai turbinati, e poi che cosa si può fare. Partiamo dai polipi, mille piedi, molti piedi. Partiamo dai polipi. I sintomi della poliposi nasale possono essere così sistematizzati: cattiva respirazione nasale, cattiva percezione dell'olfatto, quindi degli odori, a volte cattiva percezione del gusto, produzione di muco eccessiva, sia muco che scende verso le basse vie respiratorie, sia muco che esce dal davanti, più raramente dolori a livello facciale. Se vi riconoscete, potrebbero essere i multipiedi o i polipi. Esatto, potrebbero essere i multipiedi. Il mio sogno, diciamo, il sogno di tanti otorini è quello che fra qualche anno il paziente non arrivi più in ambulatorio a dire al dottore, al medico, ho la poliposi nasale, mi diagnostichi la poliposi nasale, ma che arrivi chiedendo che tipo di poliposi nasale ho. E questo è il punto fondamentale del nostro sforzo diagnostico. Oggi bisogna cercare di offrire al paziente una diagnosi precisa, capire che tipo di infiammazione determina la poliposi nasale, che caratteristiche ha questa infiammazione, perché solo attraverso questo processo diagnostico, questa medicina di precisione, lo abbiamo detto tante volte, si può offrire al paziente un trattamento preciso, di precisione, quindi un trattamento che può essere farmacologico, che può essere farmacologico innovativo con tanti farmaci nuovi, che può essere chirurgico, ma il punto di partenza è capire la poliposi che affligge il paziente. Capire di che natura è la poliposi. Sui turbinati, il sintomo prevalente dell'ipertrofia dei turbinati è una cattiva respirazione nasale. L'ipertrofia dei turbinati, frequentemente associata a un problema allergico, può esserci anche una rinite irritativa. Io però, dottor Malvezzi, o lei parla nella cornetta oppure noi non riusciamo a sentirla. E poi abbiamo anche Paolo dalla provincia di Alessandria e Paolo che è in regia alla parte tecnica che viene di qua e ce le dà tutte e tre. Dottor Malvezzi? Nicoletta, mi senti? Sì, adesso sì. Ah, ok, dicevo, l'ipertrofia dei turbinati frequentemente da ostruzione respiratoria nasale può essere associata a un problema allergico, ma può essere anche una rinite non allergica. La chirurgia, vari tipi di chirurgia, vari tipi di decongestione serve? Sì, serve, perché fa respirare meglio il paziente. È chiaro che se il problema, ad esempio, è un problema sistemico allergico, è un problema di iperreattività nasale, l'ipertrofia dei turbinati si ripresenta nel tempo, ma oggi con vari tipi di strumentario, con vari tipi di laser, tanto per usare una parola che piace molto ai pazienti, la decongestione dei turbinati si può riproporre esattamente, è una chirurgia paragonabile all'avulsione del tartaro dei denti. Chirurgia ambulatoriale, riproponibile del tempo, nessun danno sulla struttura nobile, mucosa del turbinato e quindi un intervento... Day hospital, poco invasivo. Locale, in day hospital, poco invasivo. Ma quindi buona. Questo vuol dire, dottor Malvezzi, che si rifà, lei quindi si decongestionano e poi si congestioneranno di nuovo e quindi interviene di nuovo e via così. Dottor Malvezzi. Esattamente. Allora, abbiamo Paolo dalla provincia di Alessandria per chiudere in bellezza. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono Paolo dalla provincia di Alessandria. Volevo chiedere al dottore, io praticamente mi alzo la mattina e sono sempre con la bocca a secca. Quando pranzo, cioè praticamente non percepisco gli odori, cioè gli odori e i sapori, ma anche gli odori, c'ho dei problemi, ecco, nel senso che... Meno male, Paolo, che ci siamo incontrati. Allora, perché, insomma, la vita è un peccato non avere, non gustarla, sì, con i sensi, non gustarla pieno. Allora, dottor Malvezzi, abbiamo... Paolo. Abbiamo pochi minuti, ma per dare... a Paolo dicendo questo, se Paolo si sveglia sistematicamente con la bocca asciutta... Vuol dire probabilmente che non respira col naso ma con la bocca, quindi la saliva presente si disidrata, non si disidratano le mucose e la bocca inevitabilmente asciutta la mattina. Se Paolo non percepisce in modo corretto gli odori e i sapori, evidentemente c'è qualcosa che ostruisce le fosse nasali di Paolo e questo può, ad esempio, può essere un sintomo di poliposi nasale, di qualcosa di ostruente le fosse nasali. Nicoletta, se tu immagini, se tu metti una molletta sul tuo naso, gli odori non li senti. Quindi se nel allora naso Paolo, c'è la buona qualcosa... notizia è che lei potrebbe riprendere a dormire bene, a respirare bene, soprattutto a sentire i sapori, gli odori. Quindi un saltino magari dall'otorino noi glielo suggeriamo. Intanto grazie al dottor Malvezzi per essere grazie stato con noi. Vi auguriamo un'ottima giornata. Bene. Noi torniamo grazie domani. Grazie a tutto il nostro staff. A domani, buona giornata.